andò a fare varie commissioni, dai. Come mi senti di modulazione? Confessati, intendendo. Digerito hai, Claudio? Sì, tutto a posto. Tutto ok, dormito bene, voi tutto a posto? Niente, è Natalia, lo stesso. C'è Pomponio, mica, però sta bene in casa. Ehi, stanno piacendo benissimo, c'è anche Natalina, buonasera a tutti. Sto ascoltando un po' in 2 metri e 20 metri. Lui ha acceso il cazzo adesso, stavo guardando cosa c'era. Va bene, avanti Natalina, dipende. Ehi, sempre un po'. Allora, Natalina butta c'è la finestra per il visore che funziona meglio. E allora, mangiato, avete tutto a posto, roba buona? Sì, siamo stati benissimo, due risate, due cose, abbiamo passato una bella serata, c'era anche musica, però poi li siamo andati via perché oggi appunto si lavorava e quindi non ci siamo trattenuti molto, però siamo stati bene, bella serata. Esatto, scherzando e mangiando. Sì, ma poi io ce l'ho già stato, li ho ospiti lì, quindi non c'è problema. Adesso la prossima volta ci vediamo quando c'è Stefano. Ci torniamo a andare, dai. Con la radio e ho Claudio, come devo dare? Aspetta. Che bella che cazzo. Aspettate un secondo che c'è Eugenio, non so dove si trovi. Avanti Eugenio. Vada per tempio, ciao, buonasera, 5657 arrivi qua senza nessun problema. Beh, l'impiantino c'hai, ed è pulito senza niente, ci picchia. Ti sento, ovunque vai ti sento sempre. Aspetta che c'è Marco da Tappignara, cosa stavi dicendo? No, sono arrivato al distributore, a dopo, dai, un attimo devo far benzina, sono a zero proprio. Va bene, va bene. Come lo senti a Eugenio lì, strada di Tempio? A lui che lo senta, non so se lo senta a me, lui è la Puglia che lo senta a lui. Arriva benissimo, Santiago 5-0-5. Eugenio, l'hai sentito Antonello Alessio? Che dice, è andato e ritorno. Lo già hai detto che ha parlato Marco? Eugenio, ma non lo senti Antonello? Adesso sta facendo discesione che sta arrivando basso basso. Quindi lo chiediamo. Quindi non ce n'è baracchino per Eugenio, ma è sceso dalla macchina. Avanti Natalina. Ma Natalina sta facendo cosa, ripeti Antonio. Sì, alla palla. Ma non sto andando con lo attimo. Sì, no. Sono tutti finiti, ho sparito proprio. Ma tu passaggio non va bene e poi sparito. Evidentemente sta tornando. Occhio, mi è sparito anche a me, non so se sta andando o se sta rientrando. Di solito lui fa per passare anche la domenica, non lo so. Attento, B2 la Sassa, li ascolti? Allora, facciamo la fumosa. Senz'altro deve essere così, perché questa comunità la fumosa mi va a fare, dopodiché scende in quelle sedici zone. Si sta arrivando a Sassari. Lo sentirò dopo, se no io non sto più da una volta arrivato a Tempio, non lo sento più, dovevo abitare un genitore, lo sentivo bene, fino a Tempio le persone le accompagnavo, qua proprio è niente perché c'ho la collina, capito, che mi scappa, il telefono. È sceso a fare benzina, aspetta Natalina. A lei? Non ci siete, ho fatto benzina e ero proprio a zero, la giovane si ferma la macchina Natalina e ho la tanichetta dietro, nel caso succeda ho la tanica, capito Natalina? E di cosa? Ah, ricevitore? No, allora ci stavo uscendo per commissioni, non ci ho pensato proprio Natalina. Ma guarda che non ti perdi niente Natalina, non ti perdi niente. No, ti non parli, no, tanto venuta. Ehi, ascolta, Eugenio era di andata o di ritorno? Non lo so, è sparito, non lo sento più neanche io, prima era 5-6, 5-7. Ti ho detto, sto usando quella radio lì, quella che dovevo dare a lui, con lo ZG da Palmo, dai. Bella è, ma ti dà accesa la ultima, non si accendeva, gli ho dato un colpetto e si è accesa. No, c'è bene, bella, bella chiara la voce. Ia ia. Oh, comunque stamattina ci ho parlato, 20 in più te li dai, se gliela dai. 20 in più te li dà, se gliela dai, per non stare a cercare altre radio, capito? Lo so che è così, che non si trovano, voi capite? No, stamattina ci ho parlato io, perché lunedì montiamo l'antenna nel furgone, capito? Quindi ci ho parlato io, però non abbiamo niente a provare, quindi non lo so, io baracchino no. Non lo so, vediamo un po' cosa. Ma mi faccio restituire quello suo, le porto quello suo e prova quello suo. Io sono così per provare. Capito? Vabbè, ho detto che io ci ho parlato stamattina, 20 in più che attirerà, oltre a quello che hai detto tu. Insomma, ti piace questa radio, dai. Ti piace. Chiara, va bene, o strappa, niente. ce l'hanno. E non è dopo, io lo dico. C'è anche lo porti a da qualche parte a vedere perché mi fulmina la lampadina. Sì, magari c'è qualche corto. E chi si avvicina c'è attento a mettere gli occhi all'aria. Bisogna stare molto attenti, capito? Perché è molto molto vecchia. Molto molto vecchia quella. E solo uno sapeva dove mettere le mani. E appunto lui stesso mi aveva detto che prima o poi mi lasciava a piedi, però ancora sta funzionando. Adesso come sento? Prima il display è stato cambiato, adesso la lampadina si abbiglia come lo chiama. Sempre come seconda radio, l'importante è che funzioni, già c'è il 440. No, già sta andando bene, sta funzionando bene, tutto a posto. Io solo mi devo mettere gli occhiali per vedere, vedo la lancetta che si muove, ma non vedo dove rimane, ma più o meno mi pare che sia sempre lì sul 20. E allora, che si dice? Bella lì, è bella lì, è bella lì, stamattina mi sono andato al mare, a pescare, va. E ho fatto un po' di quella falcia di acufara. Che cos'è? Pappelle. E io. Un pochettino là, pulmetto giusto da assaggiare. Belle. Belle, clap, belle. Quelle gialle, mi pare, quelle pasta gialla. Mm-hmm. Va bene. Fatemi male, no? Sì, calmo per lei. Non riuscire. Allora già siamo a posto. Scusa, ho tolto il... cosa? Non mi ricordavo più come si metteva il... esatto, rispetto. Vabbè. No, io sono uscito stamattina. E poi... niente, ieri siamo andati a... tutti assieme già la pizza, ho risato due cose, poi non siamo rientrati tardi perché Gianni doveva lavoro. Niente. Va bene. Vabbè, buono la farlo lì la pizza. Sì, non ci ho già andato, c'era anche Daniele, salutate Eugenio, a me. Lo conoscono con Ilaria, conosco anche io un po' di tempo. No, ma ci vedi a cosa già non ci ho mai visto io. Perché c'è già la rive fura, piena completamente, piena, non c'era un posto a sedersi, non avevamo la prenotazione. Dentro la sala di dentro piena lo stesso e sopra nel sottalco pieno lo stesso, ma pieno, però vuol dire pieno, eh. E gente sempre arrivando, alle 11 sempre arrivando gente. Senta, lo sto dicendo, va un bel quel locale, adesso non so se c'era musica, era vivo, Sì, c'era quel ciccione, che canta, secondo me è quello che porta gente, Chi è questo ciccione? Non mi ricordo come si chiama. Uno c'è che canta, che secondo me è pure un mezzo recchione. Questo non lo so. Insomma, siamo andati noi, c'era proprio uno spettacolo di questi orecchioni. Quindi sono già lasciati una vicina. E allora è lui, è un ciccione che c'ha il pizzetto fine fine, la barbetta fine fine, che si traveste la donna anche croccanta pure. Sì. Allora c'era anche quello, sì. E quello c'era ieri sera. E secondo me, come mi ha detto Ilaria, è quello lì che porta gente, perché è impossibile che ci sia tutto questo valentino. Sì, ce l'ha di gente, no? Un bel, ma sì, io non me lo ricordavo così. Un bel, parecchie. Ti aspetta proprio parecchie. Si vede che non c'era un buco. Non c'era posto, né dentro né fuori. Lasciamo fatte. Va molto. Ma poi dicono anche che la pizza è molto buona, anche per quello la gente ci va. Sì, anche quello sicuramente. Sicuramente anche quello. Abbiamo preso piatto composto io, Gianni e Natalino. Eugenio, Marco, Valerio, gli altri hanno preso la pizza. Sì, tanto siamo lì me. Dalla pizza non è il piatto composto, non è che siamo stati tanto mia moletta, capito? No, ma per quello c'erano pochi di differenza, non è quello il problema, è che la pizza la mangio molto spesso, io capito. e quindi l'uva fritta ne mangio poco. E allora ho preso questo, poi ci abbiamo preso il tiramisù, insomma, dolce, caffè, un'altra caffè. Siamo stati bene, dai. Siamo stati bene. Quindi un venerdì che vuoi partecipare. Viene più presto al cuscione, aspettiamo a Stefano, quando rientra Stefano. Ci andiamo nuovamente, di capito. Ciao ragazzo, va bene, va bene. Ci organizziamo venerdì. Ci andiamo, non è un problema. Che bene, ci ho preso sala la radio. Sono Giugendi, vinti io. Vinti, magari adesso, lunedì a proposito, vabbè, tu c'è lavoro. Lunedì vuole montare l'antenna, c'è la 2001, capito? Ma lì ci vuole poco nel furgone o Massimiliano, perché le fai il buco, o prima o dopo la traversina, l'antenna si piazza, ma, capito? Poi si fa entrare lì dal vetro e ce l'hai già dentro, no? Io volevo tutta misurata con la cappotta e messa proprio al centro, capito? Poi per gli urtrappo lo fai il buco, no? Vuole misurata bene, se no poi fai il buco e non va bene, rimane storta ed è brutta vederla. Devi mettere le linee con quella della radio che c'è davanti, perché poi se la sposti appena appena diventa troppo brutta. Quindi voglio prendere bene tutte le misure e bucare. Sì, la puoi rifare. Certo, non faccio il buco così, no? Vabbè, il centro è dove c'è la traversina, o prima o dopo la traversina, quindi 5 cm prima, 5 cm dopo, abbiamo già visto. Il centro è appunto dove c'è il foro della traversina, in linea al foro della traversina, quello è il centro del centro-tetto. E poi chiaramente guardi l'antenna della voce, guardi l'antenna della radio. Potrebbe essere giusta, però come è alta quell'antenna per quel furgone, secondo me la bicia. Sì, non la piega. Non la piega, ci vuole un rondellone grande sotto. Sì, ragazzi, ho un rondellone, però mi sembra piccolo. E ci vuole una bella piastra, ci vuole. Una piastrina grossa ci vuole. Ma piano. Glielo dico, aspetto quando si libero tu. Dicevi in pratico, non la vuole piazzare, ma cosa piazzi? Scusami, Claudio, mi ha detto che stavamo bussando la porta, invece non è vero. Stavo andando da qua, dai. Cosa? Mi ha detto, basta, sto bussando la porta. Sono andato, non vedo nessuno. Sto fatto in bisogno. Guarda, ma ok, non glielo dico e si piazza assieme, capito? Tu che sei più pratico. Ma io lunedì non ci posso venire, se io non potrò niente. E aspetto a fine settimana, sono piazzati io a voi. E io, mio, non ci voglia, non ci vuole niente a montarla, però non so. Adesso vediamo se si mette d'accordo con Marco per questo baracchino. Se no, si aspetta, non so. Cavagava, va bene, va bene. E a passare per il cavo, fate le stazionarie, portatemi il rosmetro. Bisogna fare le stazionarie anche, perché bisogna vedere com'è l'inferenza dell'antenna e tutto. E io avevo lungo, ci avevo poco. Beh, il rosmetro già ce l'abbiamo, però chi non potrà mai provare. Vediamo un po' che te le vuoi puta. Va bene, va bene. Ehi, andiamo un po' se c'è Natalino. Natalino, è finito, mette a posto la TV. La gente attende, Lico. Ah, ho capito. Lo senti, sia Massimiliano. Ehi, ciao Natalino. No, l'altra di ieri mi sembrava un pochino più forte la radio. Quella che stavo usando ieri, mi sembrava più forte la radio. Poi ho aumentato leggermente, ma no, come tipo di modulazione parlo. 8 picchi di 9, sei qua, però già va bene lo stesso. No, va bene, va bene, va. Ti sento bene, è bella chiara, però. In confronto a quello di ieri, che stavo usando ieri, adesso non so se va con la radio questa, però con Massimiliano. Ah, perché non c'è già le carte, Massimiliano ho sentito, sento a Carino, che rispondo con lui. No, io sono qua, Sono qua, che so, si dice. Ancora. Vabbè, dai. Evidentemente in qualche zona. In qualche... c'hai l'antenna del QSO? Adesso Natalino, c'è l'antenna del QSO. Ah, Lucia. Oh, si sentono i bip, quanti sono? Due o tre? Tre sono. Dimmi Sandro. Va bene, dile a Natalino se riserva un arringo, nuova, mai piazzata. Un arringo? Nuova, mai piazzata. Io l'avrei messa al posto di quell'antenna lì. Tanto non c'è radiale. C'è radiale, ci starà bene, te la vulcanizzo io. La piazzo io, la darò io. Io l'arringo l'ho piazzata a Mauro. Uno di stazionari a Mauro lì a Ripunti lo stesso, senza radiale, senza niente, con quel filo ben stretto, capicorda, tutta ben fatta, vulcanizzata, ce l'ha anni, mai avuto problemi. Beh, quello sicuramente è meglio di un'antenna di macchina. Infatti, no, perché Marco è contrario all'arrivo, per quel sistema che c'ha del filo, però bisogna farlo bene. Vediamo che sta ringo avrete la buccia, la piazziamo domani, a Porto di Liscia. Un ringo, un'antenna, un quarto d'onda di quelle lunghe, da casa, non c'ha radiali. Il tubo ce l'ho io, un pezzo di tubo ce l'ho io, lo attacchiamo alla finestra, è leggerissima quell'antenna. Vabbè, l'ho detto lui. Questo è gratis. No, è gratis, devi pagare. Quanto costa questa antenna? Mi dice la regia o Sandro. 39. 40 euro. Certo, costa 39 in uva e tu la ci dai 40. Prima è uno che ci commerciati. Lui è questo. Io lo sono da 40 euro. Nuova, mai piazzata. Quindi, che tu dici 39? Spieghi da Vito qua che ha dico 39. Costa 39 nuova, la GBC costa 39 euro nuova. Capisco che la tua sia nuova, cazzo, ma io. Fai un fioretto, che la Fusaro, c'è il Fusaro, sì, 39 euro nuova costa la Fusaro, ok, mi hai fatto ridere perché ho detto costa 39 euro nuova, una gira di 40, gira rotondendi, quindi è nuova, ho capito che è nuova. Claudio, e ci ho detto che ho fatto già parlate in due, cosa hai detto Sam? Ho detto che i fioretti li ho fatti tempo addietro, adesso basta con i fioretti. Ho capito, vabbè, ok, il problema è che, vabbè, non è roba per me, io dico come la penso, 40 euro è nuova, se non l'hai mai piazzata, c'è ancora dentro la busta sigillata, nuova ed è un conto, se l'hai piazzata è già usata. No, non l'ho piazzata, la busta non c'è, però non l'ho mai piazzata, si vede. Io adesso costi di destino, questo non lo so, se costa 39 posso fare 35. Vedi, questo è già un segno di fioretto, no? Ehi, costa 39 euro la Fusaro nuova, capito? Vabbè, adesso gli dico a Natalino che stava chiacchierando con la mozzarella. Natalino! Oh, è che non manchi una vita, eh! Non mancano vizi, hai visto la vita che ti muove in capo a te. 35 euro questa antenna, capito? Costa 40 euro nuova, 35 euro ma è nuova, è mai piazzata. Quella lì è uguale all'arringo, un po' più robustella, però c'ha i radiali, mentre l'arringo non ne ha radiali, una è un quarto d'onda e l'altra è 5 ottavi. Noni, ma cosa no? La Energy è una 5 ottavi, lo sa. sempre della Energy. Eia! Io non le conosco, io quelle antenne, raga. Se sbaglio correggetemi, però ho capito qual è le cose. Lì però Marco, come abbiamo già detto ieri, non ce ne vanno a radiare, non se la possono mettere perché è troppo attaccato alla facciata. Quindi o la Ringo o la Energy mezz'onda, basta che non abbia radiali, oppure due radiali solo si possono mettere, l'altra strada è quello che va attaccato al muro, non si può mettere. Scusate un attimino, chi ha detto che costa 39 euro, Marco? Io da Fusano l'ho pagata 39 euro, Grosse da Fusano l'ho pagata 39 euro, mezza città da Fusano l'ho pagata 39 euro, la Ringo della Lenna. Ma quanto tempo fa? Un paio d'anni. Oh, un paio d'anni. Allora, io sono su internet. Antenna Ringo, LEN CB, un quarto d'onda, 27 MHz, euro 60 euro. Sì, ma quelli sono dei ladri. Quelli sono dei ladri. Prezzo adesso è 39 euro. Io l'ho comprata l'anno scorso con Sandro. L'ho presa l'anno scorso per un amico, la Ringo. E addirittura me l'ha lasciata 38. Nuova, con tanto riscontrino, quasi 60 euro. Assimilia, cosa sto dicendo? Io vi sto riferendo quello che vedo su internet, e 60 euro non me ne sono inventate, capito? Non me ne sono inventate, io mi sto documentando su internet e mi dice 60 euro. Se poi voi l'avete pagata 38, l'avete pagata 39, io al momento mi sto documentando su internet. Sì, è così, però da Fusano costa 39, nuova, con tanto riscontrino, in busta, io l'ho presa l'anno scorso e me l'ha lasciata a 38, era per un amico, tutto qua, per questo ti voglio dire, però un arrivo costa 39 euro, poi su internet ognuno fa il suo prezzo, già lo sai. E il bello è che non li vale nemmeno. Ma non lo so, io non voglio insistere perché io con l'antenna ce l'ho già un paio d'anni, mi sembra che l'avevo presa per metterla in campagna, poi è rimasta lì, non l'avevo neanche piazzata, è lì da parte. Quindi io mi sto documentando su internet, poi questo io se costa 39 euro non esisto. Oh. Io non metto lingua perché conosco l'antenna, ma coso Mauro, dopo i punti, l'aveva comprata nuova. Mi pare avesse fatto a quel prezzo, io non ho fatto altro che piazzargliela, era sempre piazzata. Bisogna collegare bene quei fili delle stazionarie, regolare bene tutto, stringere bene i bulloncini e poi vulcanizzare. È un'antenna che funziona, ma ora qua arriva molto bene. Il messaggio di Eugenio, vediamolo, va? Claudio, posso? Via. Ti volevo dire, io l'ho tenuta un anno, ma la qualità dei materiali è scarsa. Dopo un solo anno che era sopra, sembrava vecchia di anni, Claudio, vecchia di anni. Il morsetto, quel filo con la vite che va alla bobina, era saldato. Avevo un invecchiamento e sembrava vecchia di anni, troppo ossido, materiali scadenti. Ecco perché io dico, se proprio bisogna spendere anziché 40, rispendere 60, ma pigliare la Energy mezz'onda, perché quella è veramente scarsa, proprio il materiale, scarsa in tutto. Ho capito. Oh Sandro, guarda che c'è Eugenio che ti sta chiamando da Val di Doria, ma non lo senti? No, Eugenio, non lo sento, aspetta che sono squash inserito. Inserito per voi, vediamo un po'. Eugenio, grande Eugenio, mi ascolti? Stavo parlando. Scherzo. Allora, negativo da parte mia, Negativo, non lo ascolto. Vabbè, non mi ha mandato. No, io non lo sento Val di Doria. Io non sento Val di Doria qua. Ma dopo, sino alle prime curve di Castelsardo riesco a sentire e poi non sento più niente. mi ha mandato un messaggio su WhatsApp che ti stava chiamando, però no, non lo senti. Va bene. Claudio, ci avevamo lasciato, a dopo, ciao. Ciao, a dopo. Va bene, Massimiliano. Venga, qua sono, qua, sto ascoltando. Favella, favella. E allora? Ti capito qual è Mauro? Che lì ai punti, quella è una Ringo, e di fianco con la staffa palo c'è l'antenna UHF, l'ho lavorato io per il ricevitore, un X300, ha sempre funzionato bene, credo che non pensa mai, vado baracchino, sempre lampato in chiave, però entra la sera, cazzo siamo sul 10, ma io mi ha preso, c'ho sonno, e chi cosa dobbiamo fare noi? Alle 7 e mezzo siamo già tutti andati, alle 8, io alle 8, alle 12 ma ne vado, poi non accendo più. Io già l'ho visto dove, Mauro, l'ho visto, e già ripunti. Gaffa, avanti, salto. Eia, va bene. Va bene, dai, stavo scorciando un po' qua su internet. Allora, lei mi ricorda la base 5B 4,8 metri. No. Vedi, di altezza senza radiali. Vediamo. Non lo so, vabbè dai, come? Eccola qua. Allora, dalla telecomunicazioni, tecnocomunicazioni, la sta dando esattamente, era 57, scontata, la da 50 euro, lasciamo perdere la spedizione, caratteristica frequenza 26-28 MHz, guadagno 6 dB, impedenza 50 ohm, lunghezza 4,8, massimo power 1000 watt, insomma, ma lascia perdere 1000 watt, prova a tagliarglielo 1 kW, se non tende di fisci. Cosa 1000 watt? Sempre che tenga poco più di 200 watt, è impossibile 1 kW, poi c'è un pezzettino di filo più sottile dell'RG58, ma molto più sottile, nero, che va collegato con la mollettina che regola le stazionarie, una gaggata, però funziona, capisci, c'è la possibilità di richiacchierare, visto che non hai modo di montare altre antenne, si può montare, ma è impossibile quella 1 kW, guarda che non c'è la Energy, quella con i radiali, la 5 ottavi, ma non quella a quarta d'onda. Un attimo, mi allontano. Claudio, allora qua parla di senza radiali, cioè il classico cerchio col filo che stai dicendo tu, caratteristiche frequenza 26-28, guadagno 6 dB, cioè 6 dB mi pare di, mi sembrano anche troppi, guadagno 6 dB, vabbè, impedenza 50 ohm, lunghezza 4,8, massima potenza 1000 watt, anche io sono un po' suscettibile sui 1000 watt di Zeus, a parte quel filetto che c'ha lì sulla spirale, sul cerchio, che è un filo molto, molto, molto, molto dimensionato in proporzione a un cavetto di 2 metri, quindi 1000 euro mi sembra un po' troppo che possa tenere 1000 euro, che possa tenere 1000 watt. Eugenio, Sandra, ti chiamo come entro nella aria sosta che è fronte mare. Va bene, se mi ascolti Eugenio, fai pure. Sì, da lì lo dovresti sentire perché in quel campeggio che va lui è fronte mare, si sì, a San Pietro a Mare la Cercia. Quindi sicuramente lo senti, però qua non arriva sicuramente. Va bene, no, lo sa, ma neanche a parlarne. Ti tiene 1 kW, hanno scritto fesserie, dai. Un'antenna non può tenere più di 200 watt per come fa, massimo 300, ma che non siano continui, capito? Che non siano 300 watt proprio continui, che siano di piccolo, allora può darsi sì, ma 1 kW la scioglie con l'antenna, tranquilla. Non è possibile, c'è col filamento leggero leggero, l'hai visto, che penso non sia neanche da 2,5, mi pare sia da 1,5, e quelle due, quei due occhielli fini fini proprio per regolare le stazionarie, ma è impossibile, no, oh, hanno scritto fesserie. Sì, no, e infatti, adesso mi ricordo bene che quel filettino lì sarebbe, diciamo, dove c'è quel mossetto, diciamo, per fargli la taratura, diciamo, delle stazionarie, che poi va a congiungere il componentore del PL, quindi è molto, molto inferiore a 2,5, sarà 1,5 di spessore quel cavetto lì. Ma vabbè, torniamo sempre al solito discorso, che la Mantova Turbo, mi ricordo cos'era, la Mantova Turbo era data per 1500 watt o 2000 watt addirittura, e io con 1500 watt l'ho cotta. Infatti all'interno, poi non so se ti ricordi quel particolare di quell'antenna famosa, la Turbo, che qualcuno aveva un po' rimesso in sesto. Sì, me lo ricordo, ma quell'antenna lì no. C'è la Energy, quella 5 ottavi a 3 radiali, che è fatta molto meglio, e quella mi sembra che tenga 500 watt, quindi è impossibile che quella lì tenga un chilo, perché assolutamente hanno scritto fesserie, vabbè, comunque, meglio dell'antenna della macchina, che lì non è che si possono montare antenne particolari dove è nata lì, non capisco, c'è da fare un lavoro molto, molto serio, e gli dicevo un'antenna leggera, piccola, 9,4, 9,3, 50, va bene, e boom, e allora siamo a picche, anche perché non flette, e quindi rimane rigida, rimane ferma, non c'è bisogno di ancoraggio, non c'è bisogno di niente. Sì, no, è corta, mi sembra sia 4 metri e qualcosina. Sì, diciamo che è un'antenna di poche prestazioni. Magari se la metti, bisogna vedere dove la metti, secondo dove la metti, certo, non avrà le prestazioni di una Mantova, non avrà le prestazioni di una, la Energy, per dire, quella la 5 ottavi, quella 5 ottavi con i 3 radialini, quella lì l'ho avuto anche qua, e ho visto che andava bene anche quella lì, ma è una 5 ottavi. Insomma, va bene, diciamo, per piccole prestazioni, poi secondo dove si trova le prestazioni le fa anche lei, dai. Poi, con 39 euro cosa vuoi pigliare? Come infatti io ci avrei montata quella è la macchina montata quella lì, adesso vediamo, intanto mercoledì dietro lavoro e sono più libero, dai, pomeriggio, mio vicino è occupato, vediamo cosa c'è da fare, e si fa il lavoro fatto come cristiani, e poi si decide che antenna mettere. Va bene. Massimiliano è palito. Marco è sceso al Bricoman, città mercato, inclusive sia città mercato. Aspetta che devo mangiare il cane, sa? Sì, ja. Lui qua. Vabbè. Allora, vedi? È rientrato sopra. Cavalcava, viene da nessuna parte. Stavo salendo la bricca, come la prende lei un po' di pelle troppo. Non ti compagni da una mangiare. Non l'ho fatto tutto stamattina. Ho preso anche il carico dell'acqua. Quindi domani mattina non devo fare niente. No, domani mattina no. Adesso devo prendere altre cosettine e poi non ne ho, la pista l'ho accesa e non ne ho altro, quindi devo andare a prendere per forza. E il freddo c'è lì, a te? Il freddo c'è qua, c'ho 15 gradi qua. Ma c'è ho finito la prestazione 21, però vabbè, no, scusa, c'è il riscaldamento già acceso. Acceso dalle 5, c'è un 21 gradi con la fiatra aperta di gratti. C'è il Geno che aveva sempre da morire. Lo so, però qua in campagna c'è un pochino più di freddo. Sì, ma guarda che stamattina non era questa gran bella giornata. C'era questo venticello fresco, non era così bella. Poi ho detto che cambia, questa settimana cambia. Freddo? E questa perturbazione c'è di nuovo di passaggio, sai com'è, no? Guarda, io sto lavorando, alla mattina ci sono 2 gradi, 1 grado ancora, poi alle 10 vi sono 20 gradi, 25, però la mattina c'è un bel freddo. Infatti, è quello il problema, capito? Esatto, no, perché io ho provato a uscire molto la mattina presto, ma c'è freddo. Positivo il capo Rogero, capo. Si inizia, io ogni tanto ci vado sul 45 ad ascoltare, però ancora no, non c'è niente, proprio niente di nulla. Cappagazza, positivo, positivo, di qualcosa l'hanno mai parlato con Valerio? Sì, deve, si sta vedendo una cosa e poi mi dà la risposta. Infatti lo voleva vedere, però non ce l'avevo io, capito? La foto non te l'ho mandata, la moto zappa. Sì, l'ho fatta vedere lì, però salirò a vedere qua a casa, sono arrivato però 7:15, ma potevo parlarne. Vabbè, comunque, cioè lì, ma che c'era lì tu. E poi io qui non c'è problema, allora, se ci vediamo te la do così, te la porti lì. Non lo so, perché vedo il tuo socio, metti 3 macchine e portala. Così tanto male, io scendo spesso a Sassi e faccio vedere, tolgo lo standard, la metto lì accesa, perché sopra il lattino fa che c'è il monitor del computer, lo metto da una parte, capito? Qui ci arriva anche l'antenna della 27, si può provare. 220 mi ha detto intanto che no. Sì, sia 220 che anche 318. 220. Probabilmente mi viene meglio, c'è l'attacco dietro della, gli attacchi ci sono della 220 di dietro la scrivania, l'attacco lì, quindi è già pronta, mettiti il microfono e la radio, quando ti capita, è così, sai che qua fa anche meglio, meno che non devo usare, come mi fa meglio bella qui così riesco a ripetere la prima, capito? Sì, no, li ho trovati, no, è più la bella, è qua, ma è sempre spento. Così a livello locale, tanto siamo sempre noi, la faccio andare anche, capito? La procura la fa in fessettia, peccato che abbia quello il cacchio di attacco, porca miseria. C'è il microfono al tavolo, ce ne sono i vendichivi, MP4, c'è quell'altro dentro l'armadio, tutti a 4 sono, porca miseria. E ti ricordi, l'avevi fatta tu con Gigi la modifica all'Inuit che c'avevo io, ti ricordi Massimiliano? Che ne fai la quella modifica? Io ce l'ho l'attacco a 4, fermi ad attaccare la radio, bisogna fargliela con la modifica, perché con quel microfono, con quell'attacco non puoi attaccare nulla. Io lo so, bisogna farglielo, sì, e boh, io mi decido, io lo faccio e via. Se così ci metto, ci prende qualsiasi microfono. Sì, perché lo sai fare, non mi dire, lo sai fare, ma tu al mio, tu e Gigi all'Inuit. Avete fatto voi due, avete fatto un bel lavoro. Si mette l'attacco a 4 e così si mettono qualsiasi microfono, la possibilità di fare un adattatore, quello se lì gli dici un microfono e non mi è mai piaciuto quell'attacco, mamma mia, però quelle radio lì sono tutte così, quella serie lì sono tutte così. Ma anche con l'attacco a 4 è meglio, capito, perché ci metti un microfono, anche magari un MP5 più 4, un turner, cambia parecchio, e cosa pretendi da un microfono mito anche normale, e a voglia del cambio se questo microfono amplificato. Non è che perché ce l'ho, MP4 la vita davanti al fianco al 780, quello chiuso. Lì c'è un MP4, un MP5 sotto l'armadio. Se poteva, comunque, già lo uso, non ti preoccupare. Anche come tu fa normale, così a fare due chiacchiere in città va più che bene. Sì, anche perché, in poche parole, nei canali normali c'ha 4 watt di portante muta e 20 modulati. No, va bene. Ma poi esteticamente è molto bella quella radio. È un bel vintage quella, perfetto. Molto bella, quindi portala che la piattiamo subito. Vabbè, Rata Pignara, finita a Città Mercato, tanto secondo me tu vai a vedere con me sia Città Mercato. Non ti basta quello che hai visto ieri lì alla in pizzeria? Dormito ieri notte, i fantasmi ci avevi. No, altro che ci ho visto. Non so che avevo oggi. Che quella cameriera che aveva gli occhi, sembrava una mezza cinese, mezza giapponese, aveva anche un bel culo. Ha messo un po' di anfrasia, ma ci vediamo. Marco, oh, lo giorno l'è giunto, ma di alla Marlon Brando, c'è il sugar. Però c'è da dire che io ero di spalle e non vedevo quasi nulla, tu invece appena entrava gente, soprattutto femmine, eri, sembravi un radar, Claudio, ti scrutavi tutte quelle che entravano e uscivano. Dal bagno, perché c'avevo il bagno vicino. Dai Claudio, io vi lascio che mi preparo e vado là. Se torno prima che ci siete ancora dentro, se no ci aggiorniamo. Vi saluto a tutti, una buona sera. Ciao Massimi, piacere averti ascoltato, siamo sempre qua. Io dopo 7:30 vado via, più o meno, a quello non c'è più nessuno, dai. Ciao, buona passeggiata, buon tutto, saluti a casa, quando vuoi già lo sai, sono qua. Avanti Natalie. Allora, non la faccio la concetta, sì, sempre attaccato, è sempre attaccato la concetta, staccati un pochettino, avanti Massimo, Marco. Eia, Natalino è così, fa una battuta e poi sparisce, non riprende, capito? Eia, quando c'è l'antenna sopra non deve fare così, no, deve rimanere in ruota, sennò guai. Come gli ha detto Giulio, cioè, cos'è che ha detto Giulio? Istigatore, dice sono un istigatore, un po' sì dai, ma lo faccio sempre senza malignità, sempre per scherzare, no? Non sono come qualcuno. Fate un attimino di fianco per cortesia, che mi è sembrato di sentire oggi nel sottofondo. Vai. Attenzione Eugenio, si ascolti la città di ferro, cambio. Attenzione Eugenio, si ascolti Porto Flores, cambio basso. Non ti ha risposto, l'ho sentito io. No, sono leggero QRM, però io non l'ho sentito. Se l'hai sentito tu, io dato dovrei essere più avvantaggiato. Ma di brutto. Eugenio, attento Eugenio. Ah, lo senti a Sandro? Non ti sente lui, non ti sente. Qua sei due, segnale due. L'ha passato tu Sandro. Ma come non lo senti Sandro? Segnale due qua arriva, due. Non so cosa dire, non lo sento. Sento soltanto QRM e basta. Mi sembra strano. Mi sembra strano che riesci a toglierlo fuori tu e io no. Cioè, io in proporzione dovrei essere molto più avvantaggiato di te. E mi ha spesso ti manda un messaggio su WhatsApp. No, io sono proprio negativo per quella zona, non riesco a sentirlo basso, perché non c'ho un filo di QRM. A te dovrebbe fare molto forte. Mi stai preoccupando. Sì, c'è tutto a posto lì, sì. Sì, qua è tutto a posto. Non so vedere la teglia. Sì, sì. Niente, stazionario 1-1. Non ce n'ho. Si è messa a posto, era soltanto quella... Era soltanto lì quel pomeriggio famoso di quella tempesta, ma adesso è tutto regolare, vabbè. Adesso c'è lo strumento acceso, c'è lo solo strumento, pure uno è stazionato. Non ho questo segnale, sei 9:20, alla grande. No, io no, è già troppo veloce il titolo, ma perché non c'ho QRM, è proprio a zero. Quando ci muove l'ago dello Smith, capito? Arrivo a 1:30, 2, proprio lo sento parlare, piano, anche lui mi tira fuori proprio a livello di QRM, come è zona mia quella, sino lì a dopo Marisa, come si chiama, lì Punta Tramontana, sino lì riesco a sentire, poi come inizia a fare il curve di Cattassaro, non sento più niente. Non lo so, se non è che è cambiato posizione, sei lì a Valle d'Oria, lì a Valle d'Oria, lì alla Seggia di San Pietro, il linea d'aria è libero, dipende dalla posizione in cui si trova. Non lo so, aspetta un attimino che cambio cavallo. Ma dove stai andando, Marco, da Natalino? No, Natalino, gli ho detto se voleva un caffè, ma non c'è posto sotto casa sua, e poi in pigiama, aspetta che c'è. No, dicevo, l'intendo con la mano, ok, aspetta un attimo, vediamo. Ok, ok, com'è, va bene? Esci, uguale all'altro segnale, va bene, prova a chiamarlo con quella lì a vedere, magari c'è più ricezione. Ok, vediamo un attimino. Attenzione, Eugenio, ho sentito un bip sottofondo, c'è un bip tra la fotografia della... Sì, mi pare di sì. Sì, guarda. Andiamo a pazienza, lo ripeto. Oh, eccolo qua. Pinocchietto, non cavolo. Dalla città del granito, buonasera, troppo rotore. Cafa, ciao Pinocchietto, buonasera. E ben ascoltato dopo un bel po', dai. In compagnia qua di Claudio, lo sparghiero, e poi c'è Marco Fondo, ma mi sembra che sia in macchina, tutto lì. Vediamo un attimino. Oh, Claudio, c'è Pinocchietto. Io lo sento a Pinocchietto, mi sembrava Cogio, come si chiama? Eugenio che ti stava chiamando. Ciao Pinu, buonasera, ben sentito. Non ho capito, no, Pinu, la beffa. Tu devi scegliere uno e metterlo con quell'affare cinese, che ne scende il topo dalla trave, e lasciare quello, Pinu, ma comunque io ti sento, è 5-5. Non ci sono problemi come l'altro giorno, ti sento alla grande. Avanti Sandro. Ok, dai, Pinocchietto, va bene. Magari io ho Pinocchietto, io nei tuoi confronti magari sono più aperto nei tuoi confronti, Claudio, magari un po' magari ti prende di fianco un po' più chiuso, vabbè, comunque dai. L'importante è sentirsi. Va bene, noi stavamo chiamando Eugenio che è dalle parti di Valle d'Oria, che purtroppo la parte mia è negativa, però è strano. Vediamo un attimino, lasciamo un attimino di bianco, vediamo un attimino se riusciamo a pizzicarlo. E se no Pinocchietto. E se no oggi se mi stai ascoltando, attrizzati. Domani si aprono torce. Ho capito, ma io domani domani sono fuori, c'è un giorno che non ho più acceso fino a c'è. E adesso accendere il barbecue, adesso ci dà tempo bello, dai. Ma no, non è acceso più. Quando ti arriva Pinuccio, sa? Lo stavo guardando, adesso vediamo al prossimo passaggio, vediamo un attimino. Ma Pinuccio non è che sia proprio a dieta, mi capita qualche volta, così magari il fine settimana, la domenica, già ci esce fuori qualcosa, se no ho qualcosa in campagna, ma qui veramente qui adesso sono qua da parecchio. Figurati che ancora ne ho, sarà pochissimo, ma ancora ne ho. Ehi, già va bene. Il Pinuccetto mi sta arrivando, Santiago 7 ha leggeri picchi quasi Santiago di 8. La radio potrebbe essere migliore, diciamo, è abbastanza limpida la radio, però potrebbe essere migliore. Sì, c'è quell'apertura del mare, infatti arriva più o meno così anche a Gigi, no, a me mi arriva a 5-5-5-6. Però molto comprensibile, va benissimo alla grande. Ultimo per la truppa, va bene. Sono arrivato Claudio, puoi registrare me, ciao a tutti. Ciao Marco, a dopo. Danado Pinu, io vivo come faccio, se non sei dietro l'angolo. Sa se non ti sente nessuno, mi ti sento solo io. Quindi c'hai il segnale di 6, la radio 5 non te la do perché è bassa, l'ho già detto, però 4 comprensibilissima. Sandro è più lontano, quindi a più lunga distanza hai due segnali in più, ma va bene. L'importante è che arrivi, no? non problem. Buongiorno, non è facile sentirlo, non è facile perché è dietro e quindi è molto coperto, quindi Patata o Thierry a me mi arrivano oltre il 9, non c'è problema, però Buongiorno è molto più dietro, non capito, però arrivi bene, dai, non ti preoccupare. Dai Sandro. Va bene, no, ma come ti ho accennato poco fa, Ocla, evidentemente per la mia posizione magari io sono più aperto, nei tuoi confronti, comunque ci va bene, dai, va più che bene. Arriva Santiago, sì, va bene. Non è che sei più aperto, è più a lunga distanza, è a raggio lungo, capito? E quindi riesci a arrivarti molto meglio come te, io vedi che sono più vicino a te di oggi, eppure oggi arriva più forte a te. Perché tu lo vedi oggi, io non lo vedo. Buongiorno, magari tu riesci a vederlo, ma non so da lì basso come sia a livello del mare, come fai, è proprio una questione di specchio. È proprio una questione di specchio. Vabbè, comunque l'importante è che arrivi e si senta bene. È un ottimo segnale, la radio che è bassa quella di Pinuccio. Però a Sassari lo sento io e Antonello Alessio. Forse Roberto Ferrato, questa zona alta riesce a sentirlo, gli altri no. Non lo sento, ho provato anche Gianni l'altro giorno, non lo sentivo. Ehi campa, non è mica dietro l'angolo, la distanza c'è, perché Buongiorno insomma è un po' di cammino, eh. Vabbè, comunque, va bene così, dai, già va più che bene. Lasciate un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare, perché c'è qualcuno che ogni tanto ha problemi che non sta uscendo, non se ne è accorto, o seppure vuole entrare. Caffa, ciao, buonasera Gianni, ben ascoltato. No, c'era qualcuno che poco fa mi scappava al visto. Avanti con la buonasera. No, mi scappa soltanto il dito quando sta parlando qualcuno. Va bene. Dai signori, io vi devo lasciare. Ciao Pinuccetto, dai, alle prossimine e stammi bene. Lasciamo un attimino di bianco per la... per l'ultima volta stasera, vediamo un po' se oggi non si è attrezzato, poi riprendi Claudio. Mia Valerione, mia Valerione, mi. Ma c'è anche da volare, mi dà. Claudio. Aspetta. Oh, c'è qualcuno che non sta uscendo del radio. C'è anche Gianni, sì, Lu, scusami, ma io non ci ho manco pensato. Ti sentiamo poco in radio, no? Non ci ho veramente neanche pensato a dirti se volevi venire. Sì, sì, siamo stati bene. Abbiamo passato una bella serata, un buon fine settimana. Insomma, siamo divertiti, te lo sai che. Pochi ma buoni. Sì, è bello, giusto così. Ma abbiamo saputo sempre prima, così ci organizziamo meglio. Infatti ieri ti avevo detto, puoi venire, ma non lo sono organizzato. E no, peraltro, se guarda, sono... io purtroppo, lo sai, i miei tempi, là. L'ora mia è questa, vedi? Cioè, arrivo a casa per fare quello che devo fare, e alle 8 vado via, poi ritorno alle 9 e mezza, e poi vado via verso le 10, dai. Vabbè, dai, chi c'è? No, vabbè, mi stai a Sandro, tu, poi, avanti. E ci sono io, Sandro, che sta chiudendo, c'è Pinocchietto il Moro che tu non senti, c'è Natalino, c'è entrato Gianni, e Marco che è arrivato a casa e riprendeva la casa. No, ma tanto adesso ci andiamo di nuovo, perché mancava Elio, mancava Stefano, mancava Antonello, insomma, mancava un sacco di gente. E quindi ci andiamo nuovamente, adesso vediamo. Prima di Pasqua ci facciamo un'altra escursione tutti assieme, dai. Avanti già, buonasera. Buonasera, beh, vabbè, si può fare, ci vado dall'altra parte, magari non mi hanno detto che ce n'è una presa figlia, da poco si sta bene, casa, si sta vicino a città da scatto, io non ce l'ho qui sia, però mi hanno detto che ci sta bene, se si scatta, però io presto non ci voglio più. Ci andiamo su città, diciamo, in modo che scusate, perché fa, perché ieri quando stava qua non stavo cominciando a cantare, e lui è bello, mi piace che lui mi piace. Dai, saluto circolarmente tutti quanti, comunque se volete andare a mangiarvi una buona pizza. C'è il Pinocchio, il ristorante Il Pinocchio, non so se lo conoscete già. No, se fa un raggio noi lo prendiamo, Siamo tanti. Ma chi è il sabotante? Vale. Santiago 9, cioè io. Chi è che vuole entrare? Non stai uscendo di radio, chi è? È da poco fatta, portante, o claro. Ma ti arriva a te, qua è Santiago 9. Anche a me adesso è tra l'8 e il 9. Sono segnali talmente bassi che io non ci faccio caso. Però forse qualcuno che non esce. Natali, sei tu? No, Natalina non mi arriva a 9, a me no. Chi è? Vediamo chi è? Chi è che non sta facendo il radio? Avanti, parla! Se non vuoi parlare che cazzo ti metti a disturbare allora con questo segnalino a Santiago Nobega, ma per carità di Dio. Uia. Avanti Luca, riprendi. Luca si è allontanato, riprendi tu già, dai. Siamo sempre lì discorso, cioè le portanti stanno arrivando dalla zona tua, già, cosa ti devo dire? percezione tua è superiore alla mia, o la mia è superiore alla tua. È la distanza. Se arrivano per 25 a te vuol dire che è vicino a casa tua. Però, cazzo, se uno vuole entrare, perché non deve entrare? Cosa stai lì a rompere le scatole? Non riesco a capire. Però lascia un po', però. Vuoi sempre il solito discorso. La colpa è sempre di chi... in casa. Va bene. Pino, qua Sassari non ti sente nessuno, Saluta Luca! Ciao Pino, un abbraccio grande, ti saluta Luca, ti saluta Gianni, Natalino, ti salutano tutti, Sandro, già lo senti, è forte pure, quindi non c'è problema. Ciao Pino, un abbraccio, dai, ci sentiamo con calma, buona cena. Ehi, beh, io ti sento, quindi non ce n'è problema. Purtroppo gli altri non ti ascoltano, dai. Ciao Pino, alle prossime. Avanti Luca. Marcia è importante ogni tanto, boh. Ciao Sandro, se mi ascolti, avanti Sandro. No, Sandro ha chiuso, sì, deve essere della zona vostra, boh, qualcuno che non esce. Qua è Santiago Nova, 8:30, no, Gianni ha detto che è più forte, lì, quindi sicuramente qualcuno che non sta uscendo dalla parte vostra. Adesso, boh, ce la faccio lunedì a tempo, me lo permette, salgo a mettere a posto il campo. Secondo me mi ritratta di un tutto, perché è proprio, cioè, non va bene così, dai. Secondo me è proprio una straccia dal PL. Poi quel campo lì, quello grosso, è pesante, fa peso, non è un 58, anche se si muove, non mi fa nulla, ma lo vedo, è un pesante. E le straccia al tutto ci butta la testa, la classe. Ma come era prima lui, a posto dell'antosolante, le fai la curva e le metti la fascetta, boh, e basta, te ne scendi, capito? Le metti una fascetta sotto, vicino al PL, facendo la curva, poi ne metti magari altre due, dove c'è un antosolante, metti la fascetta, che è più resistente. Io un altro non ne sto più usando, sto usando sempre le fascette. Io ne porto le fascette, già c'è, le ho comprate, c'è andato avanti Gianni. Mi metti le fascette e si è a posto, è tutto regolare. Marco, sei rientrato? No, Gianni, le prendi. Partita stasera invece, non so se c'è. ci si è fatta celeste. Ha detto, ah, te lo faccio celeste anche a te, ma non te nati. Ha rientrato a travagliare, ma ne piglia un buffo. Vabbè, all'altezza del sicla, dai. Con l'altezza. Allora, grande buffo. Allora, la mamma blu c'ha mai iniziato la barba blu. Non ci ha iniziato la barba blu, ci avete mirà. Adesso mia moto ti bucca, adesso è arrivato di mamma su. Gigi ci sta bene, Gigi c'ha appartamenti. E lì c'è la bella che giamba, ogni 2 anni la giamba la moto, c'è la bella. Bene blu, bella bella. Gigi la vuole, era piano stamattina, infatti devo tagliare anche i capelli e... di mattina presto l'apertura, non capito, era piena. Io l'ho chiamato la prima volta, oggi stamattina era piena, 5 minuti, ci siamo a casa e poi ci vediamo martedì. Mi dice di me, bene, grande lavoratore, dobbiamo la porta a posto. E non me lo va a dire, ah no. Valerio, come ti sta già? Non sei tu? Picchi? Qui, Valerio! No, io non ho sempre nulla. Poi siamo tutto qua, tutto. Non ti ascolti a me, Valerio. Lo voto io, non ti vergogni, lo voto io agli umidi. Quella caraffettina, non ho lasciato la metà. No, io ho un bicchiere di birra, parte acqua, proprio non ho bevuto acqua. Non è necessario ubriacarsi. Oh, Gianni! Sì, la settimana scorsa, sabato mi sa, non mi ricordo se sabato, vabbè, ho preso la pizza a mamma, la pizza a Margherita piccolina. Okay, praticamente è salita 220 mi sa. La pizza la passa di un mese. Dicendo anche a me, ma infatti non ho mangiato, ho mangiato piatto con poco. Ma ti ho sentito una volta ogni tanto nel studio, dato all'ospedale, cioè la diabetologa, diabetologo, di tu bocca. Poi di solito è capitato più volte, anche a 79 scende. No, 79 è troppo basso. Sino a 99 non è. 79 è cascata, è regolarissima, ma anche troppo basso. Per un diabete è troppo basso. E comunque la pizza l'ho fatta a me. Io infatti evito di mangiare pizza. Se mangio pizza non mangio nient'altro, nulla, basta una pizza. Perché te la fa salire un bel. E poi solitamente quando mangio la pizza mi faccio proprio di pezzi, ma faccio 5 di Gianni! Eia! Io l'ho debellata, Cosa debellata? La... diabete? Sì, sono già un mese. Mi avevano cambiato la cura, sono un mese già con i valori stabili, però sempre sotto controllo. E cosa stai prendendo? Sto prendendo un problema malato, cos'è questa qua? Il telefono. Allora, mi avevano dato la metformina. Metformina? Ma per parlare io la parola grossa, io te lo amo, però diabete, diciamo che non è controllato, quando si è una parola grossa, io te la amo nel mio cuore, però sono una diabete di ripeto. Massalino, lo sto picchiando la moglie. Lui era da finire, ragazzi. Oggi non fai un giretto. C'è andato Brickman. Mi piace sempre guardare quelle cose che c'hanno. Poi da Ocean. Tanto per uscire, mi. Ho fatto benzina anche perché, caspita, sono partito che era. Cosa c'è il serbatoio? Il distributore in piazza Porrino sembra che sia proprio in stato di abbandono, hanno messo un cartello fuori uso, non c'è più l'addetto, non c'è nulla, fuori uso da giorni e giorni, per non dire settimane, non so nemmeno se lo riapriranno più, dai, e quindi l'ho fatto inviare a Porto Torres. Ok, quanti siete? Chi siete? Scusate che c'è una pasta, Gianni. Dimmi. Gianni, hai capito qual è? Mi avevano cambiato la terapia e mi avevano dato la metformina. Sì, l'ho capito anch'io. Ma adesso, se per me non è una grossa, la stare controllando, quando si sta per parlare, io trovo tutto il cuore, ma ti avete, sì, non si cancella così, uno che ce l'ha lo tiene. Lasciate che riesce a tenere sotto controllo, così vengono con anche con la roba da mangiare. Io sotto controllo, riesco a prendere un periodo, poi alla fine non vediamo più di un po' così, sono fatto così, ci può fare, sono un po' mi piace mangiare. Ma a parte che mangi, nel tempo su di un pezzo di mare in più, e mi sale su. E sempre a che fare, tra niente. Con questa nuova pastiglia che mi hanno dato sto riuscendo a controllarla meglio, non ne ho più di picchi a 300-200, no, questo 125-150, così. Ho capito, no, ma io adesso è già da me da questa parte le solite tre pastiglie mattino, dopo pranzo, dopo cena. Al mattino appena sveglio, misurata, ce l'avevo intorno ai 140-150, adesso appena sveglio ce l'ho intorno a 95-100. Dopo pranzo, dopo 2-3 ore, dopo pranzo ce l'ho intorno ai 100-195. La cena, dopo mangiato, diciamo che la media massima è 100-105. Per un diabete che è buono, ma il massimo non va tanto, per un diabete che è buono, anche 150 è buono per un diabete, però diciamo la scala è questa, massimo 99. No, un miglioramento c'è stato, un miglioramento già c'è stato. Signori, vi devo lasciare, dai, buon proseguo, con tutto, alle prossime. Ragazza, tieniti sotto controllo così, perché naturalmente perché ci stanno le partite, se tu vuoi le partite vedi che di nuovo ritorna a Santo. No, poi tu diabeti cosa sei santo. Ehi, Luca, anche io saranno già. Già tre anni a questa parte. La prova di non prendere pastiglie, questo non l'ho fatta, perché il deviatore l'ha detto, dice vada avanti così, si tenga sempre a regime e quant'altro, questo sì, però io mi ricordo circa prima che mi cambiasse la terapia, io avevo punte di 180, 200, e era sempre quello lì, era sempre, diciamo, sempre mangiando, reazionato, erano quelle lì. Adesso che sia il cambiamento della terapia, direttamente questa terapia è più efficiente, diciamo, e quant'altro, tutto lì, vabbè, solo. Sotto controllo bisogna arrivare sempre su chi va, c'è poco da fare. Signori, non mi dilungo più di tanto, vi devo lasciare. Ehi, Assa, ci sentiamo, dai. Ehi, c'è stato contro io, questo mese ho fatto elettrocardiogramma, ecocoro, visita pulistica, insomma, di tutto e di più. Comunque, sotto me è sotto controllo. Capo, avanti, Luca. Sandro, va, dico una cosa, a mamma gliel'ho trovata a 740, e purtroppo mamma fa quattro insulina, pranzo, colazione, pranzo e cena, che sono 8, 10, 8 e 16 la notte, quello che ho bevuto la notte, quattro insulina. E meno male ci sono io a vedere il faccio, sennò era un casino nero, Poi bisogna preparare il pranzo per lei, poco sale, quasi niente sale, poca pasta pesata, quello, poco di quello, un casino. Quella è acqua naturale ovviamente. E niente, un casino, mi rubo un po' di tempo, adesso vediamo un po' se riusciamo con i soldi che gli danno a chiamare qualche persona, così io mi libero un po', nel senso posso farmi qualche lavoretto mio. Vabbè dai, avanti già. Corsale l'ha presa Eugenio, con le cozze e le asselle. Io ho voluto provare, no, aspetta, Claudio aveva detto che la panna era pesante. Ma cosa vuoi che sia pesante la panna, dai? Vabbè, sono rimasto soddisfatto comunque, dai. Però troppo rumoroso il locale, mi dispiace. Troppa gente a voci, ma no, va bene, dai. Allora almeno al lucernaio c'era più silenzio, ma lì era una brutta gente a voci. Come stava tontonandomi? Sembra un vecchietto, stavano festeggiando un compleanno. Che cazzo c'è? È normale che facciano casino i ragazzi, no? Ma a tanto mi piace questa città che c'è di locale, no? Io non disdegno di queste cose, mi piace la musica, mi sono fatto un corso di questa ragazza, sempre stato un po' silenzio, la monotonia, a me mi piace quando c'è musica, quando ci sono questi festeggiamenti. Mi sento ancora un ragazzo. Ehi, a proposito di musica, c'è una forte musica che arriva di eco qua, in lontananza, quindi o è a Piazza dei Segni o in Piazza Italia, ci deve essere un concerto. Sento proprio musica che rimbomba, che arriva da lontano. Aiuto, ci andiamo. Oh, a spaccarmi i timpani. No, no, meglio stare qui con le pantofole, con la copertina sulle gambe. Eccoli, aiuto, dai. Allora tu conta, adesso vado a mangiare. Poi verso le 9, no, fa 10:15, torno di nuovo a casa per fare l'insulina a mia mamma e poi me ne vado in un circo e fanno karaoke, sta bene, di lusso, lì in ragazza è eletta, più su del supermercato già, sta benissimo. Una birretta, qualche cartoncina e poi a mezzanotte a casa, a dormire. Ma tu c'è il figlio, mi capisco, c'è anche gli amici, tutto c'entro io, cosa posso fare? Ma insomma, senza conoscere nessuno, ma quello è, se c'è il giro di amici, c'è già il figlio di me. No, vabbè, non... amici sono in croco, proprio una mano, cinque, quelli li frequento, ma poi li fai amicizia già. Basta che uno si comporta bene, nel senso, perché c'è un personaggio che si comportano male. Dopo uno sta lì tranquillo, vai, ti fa la tua cartoncina, ti beve un bicchiere di birra, e lì e poi si fanno così le amicizie, perché noi come le abbiamo fatte, scusa. E poi oggi, ma domani e poi diventi amici, da conoscenti, non amici, perché li vedi lì, mica ci frequenti proprio. Io riprendo un attimo, che ho il telefono, perdonate, mi vi saluto, devo andare a portare il cane. Ciao a meno 10, dai. Ciao a tutti, a domani signori. Fate un buon fine sabato e buon inizio domenica per domani. Ci sentiamo domani, ciao a tutti. Non dite nulla, mi dico la cosa. Andare, Claudio. Ciao, ciao. Avanti. Ciao caro, alla prossima, dai. Buona serata anche a te. Avanti Marco. Ehi Claudio. Ciao, buona passeggiata col cane. Non dire nulla di quella cosa per adesso. Ti spiegherò via WhatsApp, dai. Lì quella roba da montare macchina. Ehi, non dire nulla. Piccola discussione in casa. Vabbè, dai, non ti preoccupare, affidati. Non problem. Ehi, chi c'è anche Valerio? Valerio mi ha detto qualcosa quando ho detto è bello stare con le pantofole, con la copertina sulle gambe, vero? Invece dovrei muovermi. Per esempio potevo scendere al centro a piedi, andarmene a negozi. Il problema è che i negozi che interessano a me sono lontani. Sono dall'altra parte della città, anche oltre. E quindi a piedi non posso comunque andare. A meno che non mi voglia fare 10 km andata e ritorno. Troppi problemi ti metti a piedi da casa fino a Piazza Italia, camminando a piedi e sono un gruppo di luce. No. E poi, sai, mi piace uscire col baracchino a me. Oggi mi ero messo proprio quello che piace a Eugenio. Ma certo, io vorrei accontentare tutti, però... sono conflitti di interesse. Mi permette che io parlo, capace che mi faccia un giro in città adesso, non lo so, non ho più gara, mi faccio in diretta adesso. Vendi uno dei tuoi già, ne hai tanti anche tu, il plus molti vendi, tanto è quello più banale. No, c'è la concessione, però io non posso fare, ma non ne ho io da vendere, non ne ho io, quelli che ho mi servono. Ah, per quello, giusto, hai ragione. Comunque l'ho tolto dalla macchina, ecco il baracchinetto, quell'M Midland, ma Intech 150 Plus. Allora gli ho aggiunto lo stagno sulla capocchia del PL, niente, lì balla. Cioè, se faccio la capocchia grande con la saldatura, entra solo in quel baracchino ma non negli altri, capito? Gli hanno fatto la canna larga a quel baracchino, gli hanno fatto il buco, il PL è troppo grande. E quindi l'antenna o la metto in quello lì solo oppure la metto negli altri. Francamente a me piace usare baracchini buoni, non quel baracchinetto lì che fa ridere. Oh, è omologato, quindi mi salverebbe quello. Ma oggi mi sono messo pure con frequencimetro, è tutta un'altra guba, anche come ricezione, dai. L'ho tolto, l'ho messo nel cofano, non so se lo rimetterò, mi sta troppo sulle palle. Poi a me piace avere la banda laterale in macchina, non si sa mai. Metti che decidiamo di passare la banda laterale e cosa vuoi, uscire senza? Vabbè Gianni, dai, buona uscita col cane anche te, dai, siamo qui sfattati. Luca, allora, io per esempio non ho pensato a chiamarti Luca. Io personalmente non ho pensato a telefonare a sapere, perché sapevo che ci avevi in casa una situazione un po' delicata. E non ho pensato a chiamare, forse neanche gli altri hanno pensato lo stesso. Riprendi lui. Vabbè, dai, io riprendo, che è tanto 10 minuti di tempo, insomma da cenare. Ci sentiamo alla prossima. Ciao Gianni, ciao Marco, ciao. Ciao Lu, già poi ce ne facciamo già. Ci organizziamo meglio, vai Marco, non c'è problema. Ehi, arrivi se ci aggiorniamo su WhatsApp, Marco, io tanto sto andando a portare il cane. Ehi a Claudio, dai, porta il cane. No Gianni, non ho capito se le porta le cane a uscire. Sento musica Claudio, tu niente sai, c'è a Piazza alle 16 è un concerto, perché sento un eco di musica forte, quindi o in Piazza Italia o in Piazza alle 16 il concerto. No, io qua non sento niente, c'è la finestra aperta sino adesso, l'ho chiusa, non ho sentito niente, non so, l'ho vista, non ho sentito niente, neanche al TG c'era qualcosa. Allora in piazza dai, concertucoli però dai, io guarda se proprio mi dovessi muovere sarebbe per un concerto rock o di quelli metal pesanti, allora forse, e dico forse, mi potrei anche muovere, ma è un caso eccezionale, ok, va bene, ciao Luca, buona cena, buon tutto dai, ci sei rimasto qua, Claudio sta andando uscendo, c'è solo Valerio mi sa. Ciao a tutti dai, ciao Valerio, ciao tutti qua, tirati. Io sto andando, cambio, spero se continuo, devo controllare un attimo se continua. Ok, dai, ci sentiamo. Porta il cane, sì, anch'io, sono già le 8. Guarda se c'è Valerio, o se c'è Natalino, non lo so. Io se rimani qua in ascolto, porto il cane e poi rientro, ma programmi il tempo di portare il cane, capito? No, fai con calma Claudio, perché io, vabbè, ero al baracchino tra la sera in macchina. Adesso vediamo che ore sono. Mi voglio vedere un telegiornale perché oggi ero. E mi sa che mi guarda il telegiornale, dai, chiudo anch'io. Ciao Valerio, ciao Luca, ciao Gianni, ciao Claudio. Qui comunque lascio acceso, perché lascio comunque acceso io fino a tardi, perché se c'è politica, troppa politica al telegiornale, mollo tutto e me ne torno qua. Ok, ciao a tutti nel caso, ciao. Buona serata, buon tutto. Vabbè, io dopo quando salgo ti richiamo, se ci sei, va bene, se no pazienza, ciao anche a Valerio, ciao a tutti a dopo. Natalino, ah ci sei tu, mi stavo guardando la stazione Natalie. Peraltro vedo che hai un discreto rosmetro VU. Bello, molto bello quello. Ma qual è il Daiwa? Quello che c'ho io è, però io c'ho quello che fa anche HF, VHF e VHF. Diciamo che cosa c'è, vabbè dai. Ci sentiamo dopo, se rimanete qua, non la porterà a Pippo. Io non c'ho ancora il tuo numero, Claudio. Ma Marco ce l'ha a mandarmelo via WhatsApp. Se Marco c'ha il tuo numero, sì, Marco, mandaglielo il mio. Se Marco c'ha il tuo numero, capito? E così mi fai uno squillo, dopo. Adesso no, che dopo portato il cane, se no mi viene male. Non me l'hai ricordato ieri, cazzo, te l'ho anche detto. E ora mi metti un numero, così metti su WhatsApp. Invece non mi fa vedendi. Ci siamo distratti nel distrarci. Marco, se c'è il numero di Natalino, tu mandaglielo, capito? Mandaglielo il mio numero, tranquillo. Ok, ok, dai. Comunque è bello, guarda, sia quello HF che quello VU sono, della Daiwa sono eccellenti strumenti, molto belli, molto grandi, precisi, non piccoli, capito? Aspetta che sto cercando il numero, Adesso non ci vedo niente. Vediamo se posso mandare il contatto, se riesco a mandarti il contatto da WhatsApp, vediamo. Non l'ho mai fatto. Allora, sono sul tuo coso, per esempio. No, questo non è... Porca miseria. Aspetta, un allegato. Questo è il telefono. Non è questo. Vabbè, un attimino, Miglio, contatto, eccolo qua. Eccolo qua, ho trovato la voce, c'è quella graffetta. C'è bisogno di una graffetta. C'è scritto contatto. Condividi e poi contatto. Vediamo, Claudio, eccolo qua. Tac. Vediamo se il numero è quello. Sì. Ok. Te lo sto mandando, Natalie. Vediamo se lo manda. No. No, ma che cos'è? Vediamo se... Canino! Alam! Come... E dai, faccio un sacrificio. Cosa c'è? Il microfono aperto ancora. Natalie, mica l'ho mandato. Sì, c'è nome e cognome e numero di telefono. Molto bello questo WhatsApp, molto molto bello. Permette di fare... No, posso mandarti un documento, un'immagine, un video, un audio, tipo una canzone, una posizione mia, tipo le coordinate GPS, un contatto, poi... A questa voce cosa c'è? Vabbè, altre cose, dai. Comunque, bello WhatsApp, molto bello. Ok? Un attimo che prendo una bottiglia di acqua, sto mangiando. Vediamo se Natalino è così bravo da aggiungere il contatto. Ma tu sei riuscito ad aggiungere il contatto, sì? Thank you. non ho mangiato nulla, nulla, nulla fino adesso. Era ancora scioccato da ieri notte. E mamma mi ha portato un panino adesso. Se no a mangiare non ci stavo proprio pensandomi. Anzi, guarda, io credo che tu quel piatto composto non riuscissi a finirlo. Anche era un bel grande, dico, un bel grande. È più morbido, la frittura è più croccante. Ehi, anche Gianni me l'ha detto. Anche Claudio me l'ha detto. Dice che la frittura, gli anelli di totano o di calamaro che sia, si scioglievano in bocca, erano buonissimi. Io perché prendo la pizza nei locali? Perché con la pizza non sbagli mai, è quasi sempre buona, raramente è cattiva. Guarda, io solo quella di Delina, a Portolo, se non mi è piaciuta niente, era da asporto, ma te l'ho detto, sapeva di... sembrava plastica bruciata, era mozzarella bruciata e poi l'impasto. L'impasto non era buono, l'impasto era... non mi piaceva niente, l'abbiamo buttata, lo sai, mangiata a metà e poi buttata. Magari a qualcuno quell'impasto può piacere, a me no. Poi a me non me ne affutti se fa le pizze acrobatiche, a me piace che siano buone le pizze, non me ne affutti se lancia in aria la pizza, non me ne affutti a me. Come? Siccome ho mangiato mi sto perdendo anche il telegiornale. Sai cosa dico? Non me ne guardo, tanto è tutto politica, Renzi, Trump, quell'altro lì. Non me ne guardo manco, non me ne affuggi. Tanto è tutto morti ammazzati, eccetera. Poi hai notato che non fanno altro che ammazzare donne. Neanche da poco uno le ha sparato e si è suicidato dentro la macchina. Gli uomini sono vigliacchi, se uno si vuole sparare si spara da solo, ma perché deve ammazzare anche la donna? Non tutti naturalmente, non tutti gli uomini, però anche qui era successo una ragazza che abitava di fronte, no? Giovane, carina. Il ragazzo era un bel geloso, quando lei l'ha voluto lasciare, erano in campagna da lui, soli, le ha sparato e poi si è ammazzato anche lui, capito? Per carità, guarda. Ma c'è di peggio, c'è chi ammazza i figli, so certi mariti che ammazzano i bambini davanti alla moglie per fargliela pagare, quella gente proprio che l'avrei ammazzato mille volte, capito? La pena di morte l'avrei data mille volte se fosse stato possibile. Pomponio, ci sei all'ascolto? Di solito entra a quest'ora lui. Ciao Gianfranco, se si è all'ascolto. No, ma questo era andato a mangiare, mi sa. Siamo solo noi. Ho detto, sta diventando bella la stazione. Okay. Perché ti capita ogni tanto, vero? A me capitava in macchina, siccome in macchina devo stare sempre a prendere il microfono e mollarlo, non in base. Mi capitava spesso di spostarmi il canale in macchina, è una rottura, dovevano mettere in quel baracchino il lock per bloccarlo su un canale, capito? E non l'hanno messo. Basta fare pratica. Te pasticceria, beh, la tua... Tu una volta avevi una pasticceria, ma cosa avevi fatto? L'hai venduta, o no? Oh, ma... Quella malattia che inizia con la... Bruciargli il cervello. Ah, così è. E non potevi fare causa all'ospedale? Ma ne avrebbero ricordato il funerale, appunto, perché gli avrebbero fatto l'autopsia. È un casino quando succede quelle cose lì, un casino è. Porca miseria, a proposito che mi ricordo, mi sono dimenticato di andare in un posto, dovevo vedere roba, mannaggia. Mannaggia a me, quello l'avrei voluto. Vabbè, pazienza, peggio per me. Anche quella arriveranno. Quella Ringo della LEM, si chiama Ringo LEM, passa via, proprio qualità pessima. Devi vedere, dopo solo un anno l'alluminio sembrava bianco, vecchio, tutto ossidato come se fosse vecchio di anni. Io te l'ho detto mille volte, la Energy mezz'onda. Ovviamente, mezz'onda. Io sono rientrato, una seconda lì. Cos'è? Sono Natalino. Oh, a me Natalino ha chiesto che antenna mi consigli. E io è da una settimana, da un mese che gliela consiglio. La Energy mezz'onda. Perché veramente di materiali è veramente scarsa la... Dopo un anno sembrava vecchia di anni quella... La Ringolem, ma proprio non vale nemmeno 38 euro. Sì, ma lì dobbiamo mettere l'antenna di ieri, in modo che ci sia quello spazio e soprattutto sia leggera, sia, capito, bisogna mettere quella lì, no? Non si mette a fare. Non puoi mettere altre antenne che poi possono danneggiare anche gli altri, no? Una di quelle ci va. Una di quelle, se quella tre radiali, si mettono due radiali praticamente lato strada, quello che invece va attaccato a uno radiale non se ne mette, non succede niente. Vabbè, ma io te l'ho detto, la Energy mezz'onda non ha radiali, non ne ha bisogno, per me era buona quella. Vabbè, vedrà lui, poi tanto mi si lamenterà della Ringo, si lamenterà e vorrà cambiarla dopo un anno, come tutti hanno fatto, e tutti, o quasi tutti, dai. Ok. Guarda, quella buona era la Ringo della Eco Antenne, quella era uguale a quella, aveva, cioè uguale, era fatta molto molto bene, aveva la bobina lo stesso così, in vista, a spirale, però era fatta molto molto bene. Purtroppo la Eco Antenne non c'è più, faceva un sacco di brutti belle, faceva antenne HF verticali buone, dipoli, mi pare anche direttive, antenne per la 27, faceva un bel di roba buona. Doveva riaprire, tutti hanno detto doveva riaprire, non ha mai riaperto. O peggio, volevano riaprire un prodotto cinese o roba del genere. E allora meglio niente. Lo so, però rispetto per l'antenna, per l'uso che ne fa lui, va bene. Sì, no, perché così ogni tanto dico, Natali, stanno parlando, non sovraondulare, giustamente lui non ha colpa, lui non sente gli altri, capito? Non sente Valerio, non sente nemmeno Sandro, pensa. Perché anche io in macchina, vabbè, Sandro bene o male lo sento, però lui conta che è nel vicolo anche, è chiuso tra due muri, per cui non gli arrivo, non gli arriva. Bene, bene, se indovini dove c'ho le mani te le do un pezzo. Sempre molto gente, dici, no? E cacchio, non si rimargina più questo taglio, non si rimargina più. Adesso era così bello il cicatrene, no, non lo fanno più, lo sai, il cicatrene, né polvere, né crema lo fanno più, era ottimo, mamma ha comprato questa connettivina, ma non serve a niente, si riapre sempre, non so cosa fare, adesso mi metto una benda quadrata col cerotto, e me la lascio una settimana, finché non si chiude, se no non so come fare, non si chiude più questa cosa. No, allora Natali, ma 094 finale è il tuo numero? Ok, non ce l'avrei, non ho capito perché su WhatsApp non c'è. Ah, questo è un altro però su WhatsApp, ecco perché. Quindi questo ti devo mettere su WhatsApp. E mandami la foto però, mi hai mandato ciao, ciao un par di palle, mandami la foto di come ti sei organizzato. Sì, va bene, dai, va bene. Ti sei organizzato bene, dai, ok. Almeno c'hai il posto, c'hai tutto. Quell'apparecchietto abusivo sotto il baracchino, eh? Lo vedi? Quello con tutte le frequenze. Ma Natalino non è manco qua, non ti preoccupare. Non lo mantellate, no? Infatti già si vede che sono quei veicolari a 25 watt. Lui già sta attento, non ti preoccupare. È 40 anni che fa di ubriaca. Guarda, è bellino comunque quello. Sembra brutto perché lui lo mette così, ma guarda, sta sul palmo della mano, è incredibile. È bello sì, va bene. L'importante è che si usi sempre come si deve usare, capito? Perché lì sto notando una cosa io. Quando sono in ascolto, c'è uno, di solito, no, che scaccia la portata, che grida, non hai capito. E poi c'è l'altro che risponde. È un fondo scala pieno qua, allora c'è qua che l'animatore è in agguato, quindi secondo me è un po' controllata quella frequenza lì. Non vorrei sbagliare, ma mi sono accorto che c'è sempre questa portante, tum tum tum tum, ma il fondo scala pieno arriva qua, può darsi, può darsi. Una cosa, di quell'apparecchietto che a Natalino ti dirò di più, vendono un microfono Bluetooth, fa da microfono altoparlante Bluetooth, cioè tu tutto l'apparecchio ce l'avevi, te lo puoi tenere anche nel cofano, e tu dal microfono, senza fili, microfonino piccolino, senti la voce, puoi parlare e puoi spegnere anche l'apparecchio da quello del microfono, lo sai, c'ha il tasto di accensione e c'ha i tastini dei canali o del volume, capito? È bellissimo, se lo unisci a quel microfono proprio è il top, in macchina non si vede nulla. Va bene, scusa, va bene, saperle usare, no? Saperle usare, perché anche se è un veicolare che ti serve per la massima ricezione, eccetera, mettilo a bassa potenza, nemmeno all'occhio, no? Non già usare il suo tempo, non ti preoccupare, siamo vecchi in queste cose, e c'è uno che ancora ha compreso, ma rispetto a me poco mi interessa, io sto al mio posto, poi ho sempre dato i consigli, se lo vogliono sentire e accettare, se no facciano come voi, la frutta sembra, io tutto mi sono immagino che in regola, non devo dare spiegazione a nessuno. Comunque mi ha colpito questa cosa del microfonino altoparlante via Bluetooth, perché la versione precedente di quell'apparecchio, il KT8009, era un normale apparato, invece il KT8009D ha il Bluetooth, quindi una volta che c'hai il suo microfonino messo in macchina tu non vedi niente, tranne l'antennino, va bene, pare che te lo puoi punire dove vuoi, anche addosso, tu c'hai solo il microfonino e fai tutto da lì, guarda, di lusso, viene voglia pure di comprarmelo, ma non ne faccio più di quegli acquisti. Ma cosa ne fai? A fare che cosa? A cosa ti serve? A far cosa? A far vedere un capo, Marco, aiuto. Finiamo, una cosa si compra e si spendono i quattrini. C'è per l'innovazione, perché uno le serve, lo usa, ma che cosa? Cioè, ti rendi conto cosa c'ho qua io che non sto usando? Non ti rendi conto? Non ti rendi conto cosa c'ho io qua che non sto usando? Cioè, fermo, ma già da più di un anno, io c'ho due gemellini che se ne stanno vivendo lì, dalla Icon, capito, a 100 watt, se ne stanno vivendo perché non li uso, non li uso. Quindi di cosa stiamo parlando? Oddio, se si usano ben vengano, ma se non si usano, è utile che uno spende quattrini per fare cosa, per portare a chi? Ancora non hai capito che entro quest'anno le WL saranno proprio a zero, ma che ora finisce uno? Si sta passando tutto in digitale, ma un SWL per comprare un digitale deve cacciare fuori, se vuole un buon digitale che riceva tutto 500-600 euro, ma capito quasi va. Me, da Talino volevo uno scanner, e infatti anch'io gli ho detto che non conviene. Non conviene perché stanno passando tutti in digitale e quindi cosa scannerivi? O c'è lo scanner che riceve digitale? Ma cioè io non devo insegnare niente a nessuno perché poco me ne intendo, ma te ripeto, io sono già arrivato. Sono già arrivato, adesso deve arrivare quello e poi basta, però a me mi serve per altro, io ho uno scopo, la patente, la licenza, non è seguito più la visione del digitale. No, infatti per il traffico V1 non gli serve niente, dai, non gli serve niente. Bene così, oh, non c'è acqua, c'è un filo d'acqua, adesso volevo andare in bagno a fare pulizia, diciamo, personale, c'è un filo d'acqua, vai, non ammala, vai. Però, l'affare che ti ho detto ieri, no, te lo toccare, mica ti prende stazione, e non vuoi credere, no, non vuoi credere, la buccia la banana, non l'avevi detto. No, non prende stazione perché uso tutti i prodotti antisettici, antistaminici e tutto, però non si chiude, cioè io mi devo mettere una benda, ce l'ho, però il cerotto buono, che è quello che vendono da Conad vendono un cerotto che non si stacca, in modo da tenere la benda a posto, e lì si chiude, perché lo so già per esperienze passate. Invece quel cerotto vendono lo Shan, il cerotto, il nastro, no, per tenere la benda a posto, si stacca, con l'umidità si stacca. Guarda, sarei andato oggi, ma mi è proprio passato di mente, era proprio un obiettivo mio andare lì, invece sono andato dall'altra parte, lì mi è passato di mente, se no ce l'avrei già, e mi sarei già messo a benda e tutto. tocca aspettare lunedì. Porco Giuda, guarda. Vabbè, pazienza, dai. A me aspetto lunedì, però ti ripeto, non te lo tocca. No, infatti, che altro sto a metterci coso, belle provvisorie, cerotti provvisori, ma si stacca, ci vuole la benda sterile, ricordiamo bene, cioè la benda sterile. E sai come si è fatto questo taglietto? Non è, diciamo, orizzontale, cioè è a tre, capito? È come uno spacco a tre. Una punta lì, una punta lì, una punta giù. E siccome sai come ti giri, come ti siedi a guidare, come ti muovi, come cammini lì, bene o male si apre. Ci vuole una benda che lo tenga fermo. E ripeto, ce l'ho, ma non c'è il cerotto buono. Quello di Lidl, quello di Auchan non serve a niente. Quello di Conad, e ti dico anche la marca, Hansablast, è il cerotto più forte che abbia mai visto. Capito? Quello proprio, quando lo vai a togliere ti si traccia anche la pelle. Ecco. Ha un'ottima adesività, anche se sudi di palle, mi detto tra noi, quello non si stacca quel cerotto. Lo stacchi solo quando vuoi tu. Ecco, adesso mi tocca aspettare lunedì. E pazienza, dai. L'ospedale. I rocchetti di cerotto mi per tenere le bende a posto, quello di Auchan fanno schifo, si staccano appena c'è umidità, quello di Conad, marcato Hansaplast, è il più forte cerotto, quello è un cerotto di lusso, ti rinstraccia puro liberi. Borotalco. Nemmeno Borotalco, lunedì. Hai capito, niente Borotalco. Mi sta cantando, mi racconti, saluta almeno. Chi è? Claudio Natalino. Claudio, ciao, Natalino, ciao. Non c'è bisogno di gridare, questo è amplificato, sempre a Bozie, capito, sempre a Bozie. Ogni volta. Ciao Liu, buonasera, mamma mia, questo Marco, sempre in tilt, Ai Claudio, sexy voice. Fissato le sexy voice, tra te e Antonello Dio si è detto le voci più belle della 27. No, Antonello sexy man. Ah, ho capito. Cioè la voce sexy ce l'hai tu, mi. Invece Antonello è sexy man. Io ho sempre avuto la voce più bella di tutti. Diglielo lì. Lui non era ancora nato. Anzi, già era nato, sì. Solo che era piccolino. Vabbè. Adesso stiamo invecchiando, la voce anche sta invecchiando. Prima era molto più bella. Natalino, saluta Liu. Ce le ho sigillate, belle, fatte apposta proprio per quelle zone, mi. Di che marca è il cerotto? È marca Hansaplast, se no non è portare proprio. Miramanuri, Michu, come si chiama? Quello di adesivo. Negativo, Natalia, ho provato. Anche quello della farmacia, fa pietà. Ho detto, ma questo è forte, sì, guardi, fortissimo, appena sudato, flop, si è staccato da solo. L'unico è l'Hansaplast, proprio è fatto bene, come nastro cerotto adesivo, nastro, se non mi, se ho già voce, mi piglio quel nastro americano, mi. Con la sua americano color metallo, ne taglio delle striscettine e mi pongo liscio. E vedrai che tiene. Io quello ce l'ho nella cassetta, quel, su questo nome che hai detto, nella cassetta degli infortuni, la cassetta pronto soccorso che abbiamo negli impianti, c'è quello, perché è arrivato dalla Prodi Farm, le cassette pronto soccorso sono tutte arrivate dalla Prodi Farm, dove a Cagliari la Prodi Farm? Ma non lo so, la verità. Mi sembra che sia a Cagliari la Prodi Farm. È arrivato un camion della Tirso con la sponda idraulica, mi ha scaricato due pedane. Infatti una ce l'ho nella macchina in servizio, però una è caduta dalla pedana e si è seduta sopra il sedile della macchina, ma l'ha sopportata a casa. Beh, giusto, no? Mina anche Natalino ha una cassetta, quelle che si usano per lavoro, no? Per legge, quelle arancioni con tutta la roba dentro. Io mi volevo fare una mini cassetta, quelle con la custodia morbida, da mettere in macchina. Però spiego, siccome le bottiglie di acqua ossigenata o di disinfettante sono troppo grandi, io ho quelle bottigliette, sai quelle boccette da viaggio per gli aerei, no? Tipo 20 millilitri, quelle piccole, no, per i liquidi, e sono quelle che spruzzano un po' tipo spray, no? Come primi nebulizzano, diciamo, il componente. Le disinfetto bene anche se sono chiuse in scatola e ci metto in una l'acqua ossigenata e nell'altra posso mettere o il disinfettante o quello, come si chiama quello, la tintura di iodio e metterla in questa borsetta piccola di pronto soccorso dove ci metto cerotti, qualche benda, le solite fesserie mi da tenere in macchina. Sì, ma in macchina ci vuole sempre, no? Quelle piccoline, sì, sono quelle arancioni, quelle verde, la mia è un po' più grandetta rispetto a quelle che vendono, perché c'è anche l'ammoniaca dentro, per gli seti, per le cose, capito? Molto fornita, forbice, nastro, garze, cerotti, di tutto c'è. C'è la ossigenata, c'è il mercurio, cromo, c'è di tutto, l'accio. Sì, già mai capito, qui c'è tutto, è ben completa. Il cinocchio è una casa, i cerotti sono buoni perché sono tutto marcato Prodi Farm, tutta roba di marca, capito? Parliamo di cose serie. Qua capo d'acqua, qua c'è il VHF, si è aperto da sopra, qualche segnalino lontano. Natali, parliamo di cose serie. Dietro casa tua c'era una trattoria, un fillerino, dove io sono andato tempo fa con i miei colleghi a mangiare, fanno trippa, cordo, a fave, tutta questa roba così, lumaconi, c'è ancora? Non lo so come si chiama lui, fa la pubblicità a Radio del Golfo, mi pare. Può essere di a Peppina. E non rispondi. Ma sai che pensi, comunque è lì. Qualche giorno andiamo lì. Ma da Dio ci mangia, Marco. Da Dio, Isciua, sta accordo, la buonissima. Non so se ti piace, anche le favere bizzarri. Tutti gli assaggini di queste cose, poi sono monfette, lumaccone, lumacche, e sugar. Esatto, sì. Si paga un pochino, si paga un pochino, ma forse come abbiamo pagato ieri, una cosa del genere. Però da Dio si mangia, caspita, c'è nata mia figlia, che non è molto amante di queste cose, ma tuo papà si mangia veramente bene, roba sana, genuina, roba di grigliati, capito? Bene, quindi cambiamo qualche volta, viaggiando in viaggi la musica, vabbè, rimbocchiamo la chitarra, la fisarmonica e abbiamo il concerto ancora. Lo sai che ieri Gianni sarebbe rimasto lì per la musica, dice io per me sarei rimasto, poi mi ha guardato in faccia, mi ha visto stravolto e mi ha accompagnato a casa, lui sarebbe rimasto volentieri, io no. Poi questa musichetta di minchia che c'è, io ascoltavo musica rock, metal, roba pesante, con queste canzoncine italiane da karaoke, dai. Vabbè, lui ha i suoi gusti, io i miei. No, ma lì non c'è il karaoke, quello che c'è, tutti i venerdì, mi ha detto mia figlia, è uno che va e porta gente anche, capisci? Porta gente. Se poi vogliamo andare a mangiare la pizza e ascoltare musica e ballare e divertirci, bisogna andare da Franco. Franco Vidi di Ottava, l'ex Danilo, capito? Ma a me non mi piace ancora del genere, tutto liscio, tutto ballo da vecchio, no? Non mi interessa a me, capito? Quindi no. Vabbè, vedete voi la prossima volta magari che c'è Stefano, vediamo dove andare a qualche altra parte. Se no scendiamo a un produttore, se mi avvio. Dove volete, basta che se mangi. Basta vicino alla pizza, volete, panna e salmone, così. Sì. Sì, no, ovviamente è pomodoro, mozzarella, panna e salmone. C'erano anche i gamberetti da menù, io li ho fatti togliere, volevo solo pane e salmone, volevo sentire la nature. Buona, buona, caspita, il salmone stanca un po' ma è buono. Tu dicevi che la panna era pesante, ma cosa pesante? Io digerisco anche il granito, digerisco io. No, io già l'ho mangiata qualche volta, però è pesante, la mia pizza è fatta di acciughe e salsiccia, basta. Oppure una bella zuppettina, vedi, è che e bisogna andare mai dove c'è Gianni, che lui lì a Portoce magari ci va, ci è andato di più. Andiamo, ci facciamo una bella zuppetta di pesce, qualcosa del genere. Mangiare sempre le stesse cose non va bene, ci aspettiamo le direttrice, tanto penso che un fine settimana di riposo te lo diano. Stava dicendo così, adesso vediamo. Se si libera ci organizziamo di nuovo, noi siamo di più. E già va bene, già va bene. Tanto Valerio è sempre disponibile, non c'è problema. Gli altri uguale. Dobbiamo vedere un po' se si libera il panello. Non ho sentito per niente, o si è entrato. Ma sul tardi non è entrato, l'ho anche chiamato. Ma forse sono da Faratti. Forse quando il fratello sarà in quella clinica, non so cosa sia, se sia una pensione o una clinica, avrà più tempo libero, dai. Che altro dire? Niente, niente. Hai visto ieri, me ne stavo mescendo gli occhi con la pizza, ho detto io non c'è più spazio, poi come ho visto il dolce, e tu mi hai detto, già lo vedi che si è formato lo spazio, ah. Caspita, non avrei perso il dolce per niente. No, ma per quando sei così ci vuole, dai. Ma il tempo, il dolce, il caffè, la manta caffè, digestivo a testa. Abbiamo passato una bella serata, dietro quei tre quarti di bianco che ho portato a me, gli ho lasciato più di un bicchiere, no? Non ti hai fatto quei due bicchierini così mangiando, no? Io birra la mangio perché non è bello, perché sennò non riesco a mangiare la pizza, mi gonfia subito. Ho sempre preso una caraffettina piccolina di vino bianco, manco di rosso. Però quello era buono, quello era buono. L'altra volta che eravamo andati non mi piaceva, quel cameriere dice no, è sempre lo stesso, poi l'hanno cambiato, c'era un saporaccio quello dell'altra volta. Quello del lucernaio. Comunque io non amo il vino, l'ho assaggiato un dito appunto e devo dire che era buono, è veramente. Sì, hai visto io quella caraffettina che ha portato, cioè, l'ho lasciato anche perché poi non avevo già finito di mangiare, quindi no. Già va bene. No, io non bisogna poco e niente. Mi d'estate qualche bicchiere, ma deve essere proprio una giornata bella calda, capito? Da risettarmi, se no è sempre tutto vino gazzoso, da risettarmi però rosso e vino rosso, a casa sempre vino rosso, non manca mai, e super colice non è bello, quindi va bene così, lì abbiamo fatto un'eccezione, un digestivo proprio così per guarire e basta. Va bene, comunque hai visto la gente liscio, l'ho detto a mia figlia, ho detto tutti i venerdì. sabato è sempre così. Mamma mia, ma i camerieri non gli viene mal di testa con quel brusio, no, diffuso di gente che parla. Comunque, vabbè, io ho bevuto Coca-Cola, anche quella gonfia e caspita, quella è tutta aria, gas compresso. Ecco perché poi uno non riesce quasi a finire la pizza. Ho lasciato i bordi perché non ce l'avrei fatta. Faccio Valerio, tutto, bordi tutto si è mangiato, anche il piatto si mangiava proprio fra dopo. Ci mancava solo quello. Va bene, bene, bene. Comunque hai ragione, mi toccando i capelli sono appuntiti, sai perché? Perché li ho fatti con la macchinetta e quello che fa con la macchinetta rimangono tutti dritti lì, capito? Come di tutti sembrano a spazzo proprio. E sembrava, come hai detto, riccio di macchia, rizzo di mazza, così. Avevo rizzo di macchia. E così, no, adesso mi vede così. Adesso ma questa mattina mi sono fatto solo sistemare la barba e basta perché era pieno, mi ho preso appuntamento martedì mattina, appena apre le 8:30 ci vado e mi faccio i capelli così, sono a posto perché poi rientro la mattina, mercoledì sono al lavoro, la mattina non posso, pomeriggio arrivo alle 3 a casa, mangio, mi sdraio e poi io non esco più, voglio andare alle 5 al barbiere, no, manco io mi pare, mi farò martedì mattina, che lunedì è chiuso, e boh, ma tanto vieni stasera la chiusura e non c'è problema, no, di sabato sera, voglio andare al buio. Cioè sono uscito ieri, va bene, no, adesso sono 9:10, ma pronto quindi vi lascio, vado a cenare, ciao a tutti, ci sentiamo domani ragazzi, dai. Come dicono Alghe, amo già 30, ciao Natà, ciao Marco, ciao a tutti, ci sentiamo, a domani, ciao. Ciao Claudio, buona cena, ci sentiamo domani. Per adesso sopra Siri, per dire, cioè su quella questione al baracchino, piccole discussioni così in casa, perché giustamente spendo sempre un sacco di soldi e poi svelo, insomma mi ha avuto una piccola discussione, quindi per adesso nulla di fatto, non comunicare nulla, dai, vedremo, dai. Io non sono problemi miei, te l'ho già detto, vedete voi, va bene così, non l'ho tolto perché devi contare prima, capito? Prima devi contare, c'è una cosa ti serve, te la compri e te la tieni, c'è una cosa non ti serve che lo fai solo per averla lì, è utile che butti via i quartieri, perché si sa poi quando vai a vendere, non puoi vendere quanto hai comprato, è normale, no? È normale per tutti, è normale per tutti, capito? Sai quella che va con Valerio, impeccabile, nuova, nuova, nuova, nuova, tutta la linea complessa, sai quanto ho pagato quella lì, non te lo dico, non te lo dico, ci avrei messo quasi uno intero, capito? Perciò lascia perdere, non fa però, ne avevo altre, quindi una l'ho dovuta avere per forza. Questi baracchini, ma ce li hai, bellissimi, nuovi, belli, basta, non comprare più nulla, una cosa, e se no vendi di tutto e ti attacchi l'857, il 27, usi quello e basta, e ti apri tutto lo gomolo, capito? Va bene, dai, ci sentiamo, comunque l'857 poi, quello lì vedi, quello si può vendere adesso però, da perdere poco, da perdere poco. Quello che l'hai pagato, se lo vedi adesso ci perdi poco, ma se continui a tenertelo, alla fine devi svendere anche quello. Leia. Comunque adesso prima di salutare, dai, sai come fanno certi furbi, anche sui forum li vedono? Per esempio il Pluto, no? Metti che l'abbiano pagato 20 anni fa, no? Metti io l'abbiamo pagato 350.000 lire, no? Adesso che c'è l'euro, dopo 20 anni lo vanno a rivendere e te lo vendono 150 euro, no? E praticamente 150 euro sono 300.000 lire e quindi lo vendono come quasi quanto l'hanno pagato, capito i furbi come fanno? Cioè vendono roba vecchia di 20 anni a un prezzo quasi nuovo come l'hanno pagato loro. Io no, certo, io posso venderlo metà da 260 a 130, dai. Quella è una cosa più corretta, perché un dirigente sui forum, soprattutto uno, ti vende roba vecchia a prezzo quasi del nuovo, infatti qualcuno l'ha rimproverato, cioè ne ha detto due di paroline. Vabbè, su Roger Caffani. Ok, buona cena Claudio, dai, vado anch'io, via, mi attacco la TV io. Ciao Natalino, anche a te, ci sentiamo alla prossima, domani dai, tanto siamo sempre qua. Ciao, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao Natalino, no, io quello che ho venduto l'ho comprato in euro e l'ho venduto in euro, praticamente quasi a metà, però quello che ho fatto io è la linea completa, si consideri che solo la colonnina di quella linea costa 180 euro, con tutti i filtri, quindi ho fatto un blocco e con un margine dove ci potevo stare io, ci poteva stare anche chi compra, assolutamente. Se compri in euro, vendi in euro, se hai comprato in lire devi fare uno più uno, come sparare il prezzo. Però ci sono quelli che io li chiamo accattoni, capite? Che quando vendono loro devono vendere a prezzo pieno, quando poi comprano stanno lì rompendo le palle, ma è troppo, e lo sconto non lo fai, è quello e quell'altro. Quando invece vai a comprare da loro, o che devono vendere qualcosa loro, te la vendono a prezzo pieno. Chi si sono accattoni? Ciao, chiudo, vado a cenare, ciao ciao. Ciao ciao a tutti, ciao ciao, buonanotte.